Il primo giorno che sono arrivata e che ho cominciato a lavorare era 17 anni fa, dopo che avevo finito una borsa di studio alla Sapienza in scienze politiche, e quindi diciamo che il mio primo impatto con la realtà italiana è stato come corrispondente dei servizi est europei della BBC, e ho dovuto subito lavorare sull'ennesima crisi politica in Italia. Ma 17 anni fa. E poi hai capito che non sarebbe stato un compito raro o insolito vivendo qui. E di che altro ti occupi? Cosa stai scrivendo recentemente per il tuo quotidiano 24 ore, per il 24 ore bulgaro? Ma ormai da un anno quasi tutti i corrispondenti stranieri si occupano con un personaggio, quindi Berlusconi, però diciamo che molti di noi, non solo io ma anche molti colleghi, cercano di raccontare l'Italia non tramite la cronaca quotidiana della politica, ma anche tramite i cambiamenti che in questo momento colpiscono la società e i costumi degli italiani, di come la crisi o la politica riflette nella quotidianità degli italiani. E ci sono veramente tanti cambiamenti, cioè lo potrei dire come una persona che osserva gli italiani da fuori. Sì, dacci qualche esempio, soprattutto tu su cosa hai puntato i tuoi riflettori. Per esempio gli ultimi articoli o ricerche che ho fatto è di come gli italiani divorziano sempre di meno grazie alla crisi. Cioè il fatto è che la crisi ha alzato il prezzo anche dei divorzi, quindi la gente, siccome si è impoverita, preferisce non divorziare. Sì. Al nord c'è per esempio il costo della vita post separazione, naturalmente. E tu sei un corrispondente straniero, vivi in Italia, ti capiterà anche di arrabbiarti per qualcosa che osservi? Ma io mi arrabbio soprattutto, ma questa è una cosa che ho notato fin dal mio primo giorno in Italia, di alcune abitudini che ancora non riesco ad accettare, per esempio il fatto di rinviare le cose e di non dare risposte concrete anche quando sono urgenti. Cioè in Italia è molto difficile avere una risposta netta no, in tutti i campi, sia nella politica, cioè la risposta, quella che sentiamo è forse si farà o ci sono sempre delle buone intenzioni. Invece quando per esempio uno risponde con no, è molto più chiaro anche per l'interlocutore di fronte come comportarsi. Meglio uno secco che un vediamo pieno di promesse che poi porterà delusione. Qual è il personaggio più noto italiano, naturalmente, in Bulgaria, a parte Berlusconi che hai già citato? In Bulgaria sono molto noti i calciatori, che per la gente che segue il calcio anche, però più che personaggi io direi che all'estero si parla molto delle marche italiane, oppure personaggi che sono legati, Armani, Valentino, perché la moda è una cosa che attira moltissimo, oppure tutti i personaggi dello sport. Direi, io stavo riflettendo questi giorni che direi che questa cosa che per esempio all'estero manca è la... non si conosce il cinema italiano di oggi, ecco, e cerca Violina nei tuoi articoli, magari insistendo col caporedattore, di colmare anche questa lacuna. Grazie per aver chiacchierato con noi questa mattina, buona giornata. Grazie. Violina Hristova, corrispondente bulgara dall'Italia per il quotidiano nazionale a maggior circolazione 24 Ciasa. Ci ritroveremo tra pochissimo per discutere della provocazione. Può giustificare la violenza? Due storie a confronto questa mattina, ancora buongiorno da Irene Zerbini. Il pensionato che a Milano ha investito e ucciso un giovane che lo aveva insultato, è successo il 25 luglio. Non stiamo nemmeno a fare i nomi dei protagonisti perché la nostra intenzione non è certo anticipare il processo, ma soffermarci su alcuni aspetti. Ebbene, questo pensionato, ieri intervistato dal Corriere della Sera, riceve lettere di solidarietà in carcere, arrivano da amici, vicini di casa, parenti, gli dicono: Non sei un mostro, hai perso la testa dopo aver ricevuto sputi, hai perso la testa dopo aver ricevuto insulti, tra l'altro questo è quanto lui ha raccontato. Su un piano completamente opposto invece abbiamo in Iran una donna sfigurata dall'acido che ha deciso di risparmiare al suo aggressore la stessa sorte. E abbiamo messo a confronto queste due vicende per chiederci la provocazione per aver ricevuto un'umiliazione o viceversa un danno permanente, serissimo, dolorosissimo, come quello provocato dall'acido, purtroppo, può essere la giustificazione e della legge del taglione da una parte e di una azione criminosa o violenta. Buongiorno a tutti voi che vorrete partecipare con i vostri sms 349-238-6666, questo è il numero, o il numero telefonico 800-24-00-24. Intanto do il mio buongiorno a Dario Fo. Buongiorno, benvenuto in trasmissione. Premio Nobel. Non sento perfettamente, se potete sollevare un po' l'audio per me. Forse è una richiesta che possiamo accogliere, Peter Bescapé si sta già dando da fare in regia. Ecco. Ora mi sente? Sì, la sento. Senta, lei è premio Nobel alla letteratura, attore, intellettuale, scrittore, bisogna pittore. Dimenticarlo però. Sì, no, ma io lo ricordo, sa perché? Perché ci potrebbero essere bambini all'ascolto in macchina, con la famiglia, vogliono sapere cose che noi diamo per scontate, come chi è Dario Fo. Tra l'altro lei è il settimo genio vivente, secondo una classifica britannica, e ci aiuti a capire. Il male più grande lo fanno sempre gli altri, poi noi reagiamo? L'è mai successo? Ma io mi riprendo a una frase famosa di Shakespeare quando dice: questo mondo è impazzito e noi siamo parte di questa follia. E ognuno si deve prendere un po' di responsabilità, non guardarlo come dalla finestra e dirsi: beh, sono cose che capitano fuori del mio mondo, non posso occuparmi di tutto. No, bisogna occuparsene e cercare di capire cosa sta succedendo. L'egoismo, la paura, l'insicurezza, il fatto che i media e molte volte i governi hanno interesse a montare sulla paura, sullo sfacelo, oppure danno tutto per scontato che tutto va bene, che è solo di passaggio, che sono gli altri che stanno male, ma noi abbiamo un'economia che tira a meraviglia. Poi succede quello che succede oggi, cioè c'è questa sbragata terribile di tutte le banche d'Europa e del mondo, e noi siamo così attoniti intorno a guardare quello che succede senza capire, perché io dico la verità, non ho ancora capito che cosa sia successo. Ho capito che c'è una cosa marcia sotto, che c'è stata speculazione, che c'è stata furbizia, che c'è stata proprio incoscienza anche da parte di coloro che portano avanti il problema dell'economia. Ma ancora non si è dato, lei che è un genio, non è riuscito da questi elementi che abbiamo in possesso a dare una risposta chiara. Ma tornando al tema della provocazione della follia umana, se già ne parlava Shakespeare, sì. È un po' come dire: nulla è cambiato e nulla cambierà. No. Shakespeare se ne accorgeva al suo tempo, e credo che quella frase non è che l'abbiano ripetuto tutti, che tutti fossero d'accordo, ma il fatto di accorgersi che non c'è il senso della ragione, che non c'è riflessione, che non c'è un momento di collettività alta, perché tutto il problema è poi quello, accorgersi che non siamo soli sulla terra, che ci sono degli altri che soffrono, che bisogna, che è tuo dovere fare in modo di aiutarli o denunciare le infamità. C'è una distrazione e un egoismo che determina questa distrazione, che sono orrendi, bisogna dirlo. Parto dal primo sms di Damiano, ci scrive da Roma e dice: la violenza non è mai da giustificare e i futili motivi sono aggravanti specifiche. Però non voglio sentire che questo ragazzo che è stato investito e ucciso era un padre di famiglia, visto che sembra sia stato lui a insultare e a danneggiare l'auto dell'anziano. Quindi anche il tema della proprietà che entra: non solo aveva sputato in faccia all'anziano, aveva dato un calcio a questa Audi, come hanno specificato i giornali, sempre sul resoconto dell'anziano, e quindi anche questo contribuisce in qualche modo, sì, a giustificare. Sempre più una follia, se uno sa che danno ha creato, cioè ha offeso la sua macchina, cosa capisci, diventa proprio sempre follia, non è che gli ha procurato un danno, gli ha spaccato qualcosa, no, ha offeso la sua macchina. La sua macchina è una cosa sacra che non bisogna denigrare, che non bisogna prendere a calci. È stupisce infatti questo tono assolutorio di molti messaggi che arrivano, assolutorio e veloce. Questi messaggi dimostrano in che mondo siamo, cioè non si pensa a un morto, un povero disgraziato, uno schiacciato, alla dimensione fuori da ogni contesto di questo uomo, l'isteria, no, si pensa, si arriva a dire addirittura ha ragione, non si danno calci alle macchine, non si impreca contro il modo di guidare. Ora, vorremmo sapere anche dal punto di vista giuridico se l'attenuante esiste. Abbiamo con noi oggi un magistrato che ha una vasta esperienza non solo sul codice penale nostrano, ma internazionale, in quanto ha lavorato in diversi paesi stranieri, ha fatto parte delle commissioni europee che hanno messo mano ai codici penali, per esempio dell'Albania, per esempio dell'Afghanistan. Lo ringrazio, lo saluto da San Pietroburgo, Rosario Aitala, benvenuto. Buongiorno, grazie. L'attenuante dunque, dottor Aitala, esiste? Quanto pesa poi l'attenuante della provocazione? Ma guardi, l'attenuante esiste nel nostro codice penale, si tratta dell'aver agito in uno stato di ira determinato da un ingiusto fatto altrui. Però evidentemente, anzitutto ne vorrei parlare, come ben diceva lei, astraendomi dalla vicenda concreta che assolutamente non conosco, e che è bene che se ne occupino i giudici naturali, coloro che ne hanno il dovere. Il giudice deve sostanzialmente valutare, quando stabilisce la pena per un reato, quanto è grave l'atteggiamento personale di chi lo ha commesso. Allora, in alcuni casi, agire in uno stato di grave turbamento psicologico per un'offesa ricevuta da un'altra persona può determinare una pena più bassa. Però la questione è molto complessa perché, come in qualche modo suggeriva il suo ascoltatore che le ha inviato il messaggino, in alcuni casi lo stesso fatto può essere considerato semmai un aggravante, quella dei motivi futili o abietti. Quindi è una questione di fatto da valutarsi. Il principio generale è che il giudice valuta quanto è grave l'atteggiamento psicologico di chi ha commesso un reato. Ma l'atteggiamento psicologico di chi commette questo reato era tenuto in considerazione anche quando si parlava di delitto passionale, di codice d'onore, di umiliazione di colui che trovava per esempio la moglie, la compagna in fragranza d'adulterio, non è la stessa base? Ma guardi, quello in realtà è stato escluso anche dalla Cassazione. Diciamo che, guardi, per fare un esempio più chiaro, io credo anche più civile di questo di cui ci occupiamo, ricordo un processo di alcuni anni fa in cui una donna che era stata vessata per anni e anni, torturata psicologicamente, fisicamente, un giorno di fronte all'ennesima aggressione prende un grosso coltello da cucina e colpisce il suo amante, ferendolo, l'amante poi non morì. Ecco, in quel caso noi abbiamo ritenuto nel giudicarla che il suo atteggiamento fosse stato in parte provocato dall'ingiustizia del comportamento di questa persona e quindi la pena è stata più bassa rispetto a quella che sarebbe stata stabilita se questa donna all'improvviso avesse deciso senza alcuna provocazione di colpire l'uomo. Ecco, è questo che bisogna tenere a mente. E poi è giustissimo quello che dice con grande saggezza Dario Fo, devono essere considerati anche il valore dei beni giuridici a confronto, cioè un conto è la proprietà, un altro conto è la vita sta in cima al catalogo di valori della nostra Costituzione e quindi non è mai possibile giustificare ma nemmeno attenuare il comportamento di chi per proteggere o per reagire ad un'offesa a un proprio bene materiale e attenta al bene supremo, cioè alla vita di un'altra persona. Ci sarà una differenza, Dario Fo, tra un'azione e una reazione spropositata? È ancora quasi, con noi? Quasi tutte le risposte tragiche provengono da cose piccole, minime, quasi tutte, ci sono anche quelli che naturalmente reagiscono a cose pesanti, per cui non si può neanche pretendere di essere comprensivo e soprattutto comprensibile e distaccato. Ad ogni modo, insisto, il problema è proprio quello del comportamento generale, non si può fare un discorso sul piano individuale, è una società intera che deve muoversi diversamente, che deve prendere dei canoni, che deve accettare dei modi, delle comprensioni. Non per niente uno dei momenti più alti della nostra cultura è i comuni, la istituzione dei comuni. Comune, cioè tutti quanti sono insieme e devono dividere e partecipare e hanno responsabilità di quello che avviene nella società. C'era una legge al tempo di Mao Zedong che diceva: in un paese se c'è qualcuno che compie degli atti indegni, la responsabilità è tutta legata alla collettività. È anche vero viceversa che a volte però l'azione, l'esempio di un individuo, può contribuire a cambiare il corso anche del sentire comune. E per questo oggi ci fermeremo sul caso di una donna sfigurata dall'acido in Iran, che adesso, per ragioni di tempi ristretti, sintetizziamo la vicenda, ha deciso di risparmiare al suo aggressore la stessa sorte, cioè di essere a sua volta accecato con gocce di acido negli occhi, come prevede la Sharia. Insomma, ha rinunciato alla vendetta, preferendo un risarcimento economico. Questa donna ha contribuito a cambiare anche questo sentire comune, questa responsabilità collettiva di quello che accade, Dario Fo. Ma certo, bisognerebbe andare un po' più dentro e capire, prima di tutto, la condizione generale sul piano della cultura e del modo di agire di quella società, che cambia, perché quando si dice per esempio l'Oriente o si dice il mondo islamico, si fa un calderone, non si certo. Pensa mai che, come succede in Europa, che ogni Stato, ogni governo, ogni gruppo sociale ha un modo di comportarsi davanti ai fatti della vita, e così anche in Oriente succede la stessa cosa. Quindi studiare già che razza di moto e soprattutto che dimensione culturale ha spinto questa donna ad agire controcorrente completamente, andando contro tutte le regole della convenzione. Una donna colta che studiava ingegneria quando è stata deturpata dall'acido a 26 anni per aver rifiutato un uomo. Mi sembra interessante osservare, proprio perché noi occidentali siamo sempre molto veloci a puntare il dito contro le culture altrui e i taglioni altrui, un po' meno sui nostri, che era stata rimandata più volte la sentenza perché non si trovava un medico disposto a eseguirla, a versare l'acido negli occhi di quell'uomo che era stato condannato secondo le leggi della Sharia. 24 mattino estate. Dove vai con quella pistola in mano, Joe? E questo era Jimi Hendrix, che ci riportava uno scenario analogo a quello della reazione di chi si sente provocato, umiliato, come l'uomo tradito. Continuano intanto i messaggi dei nostri ascoltatori al 349-238-6666. L'autista ha torto e avrà attenuanti, però ci ricordano ha subito uno sputo in faccia. Non è tanto il calcio all'auto, ma lo sputo in faccia. È chiaro che la reazione è stata esagerata, ma e poi puntini di sospensione eloquenti. E interessa questo tono assolutorio, sembra quasi che il processo sia già stato celebrato dall'opinione pubblica e ci si è schierati a fianco di questo pensionato che è stato provocato. Cioè la reazione rabbiosa di qualcuno provocato suscita simpatia spesso, a prescindere dalla conseguenza, dalla forza utilizzata in quella reazione. Saluto Elena Doni, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuta Elena Doni, giornalista e scrittrice, autrice del libro Il volto cancellato. Lei, Elena, nel volto cancellato ha raccontato, per averla vissuta da vicino, per esserle stata accanto, la tragedia delle donne sfregiate con l'acido solforico. Lo scenario in questo caso era il Pakistan, era un'altra cosa naturalmente, e poi ha raccontato anche la speranza, in qualche modo, il viaggio di queste donne in Italia per la ricostruzione chirurgica del viso. Cosa si sente di dire oggi quando sente questo tipo di reazioni, come quella di Ameneh Bahrami, che ha deciso di voltare pagina e perdonare dall'Iran? Mi dico che la cultura in qualche modo penetra anche in paesi chiusi, e sicuramente il fatto che questa ragazza abbia studiato, volesse diventare ingegnere, ha qualcosa a che vedere con l'apertura mentale che dice che perdonare è meglio che creare altre vittime. Non è così diffuso, temo che sia un caso isolato, però accade anche questo. Purtroppo continuano ad accadere queste aggressioni terribili con l'acido, che tra l'altro viene venduto anche liberamente con varie scuse in vari paesi. Io sono stata in Pakistan, da dove proveniva quella ragazza che è stata poi curata in Italia, ma questa forma di violenza c'è, e quello che mi fa paura è la diffusione della violenza anche in Italia, come se a una causa non grave come quella dello sputo, dell'aggressività eccetera, una persona pacifica come il signore che adesso è in carcere, un uomo di 71 anni, ha reagito con una violenza che gli era assolutamente sconosciuta. Mi chiedo se non c'è una specificità italiana in tutto questo, cioè un aumento del traffico, un aumento dell'aggressività, un sentirsi soli dei cittadini, perché la giustizia in Italia, lo sappiamo, impiega 20 anni a volte per dare ragione o dare torto. E quindi questa reazione rabbiosa fa parte di un contesto, perché nel traffico... Cioè lei dice non c'è più la certezza della pena, che invocava anche Beccaria, che dovrebbe essere alla base di un messaggio rassicurante di convivenza della società, e quindi si scatenano queste reazioni. Dario Fo, è una caratteristica italiana anche secondo lei? Dario Fo, abbiamo perso la linea in questo momento con lui. È una domanda che giro al magistrato Rosario Aitala. È collegato secondo lei questo senso di impotenza, di rancore quasi latente, anche alla situazione della giustizia in Italia? Ma guardi, questa valutazione la lascio fare alla politica, che ha il dovere di trattare di fenomeni. Io dico che bisogna dare il messaggio opposto, cioè bisogna ricordare che in uno Stato civile, nel nostro Stato democratico, il primato della violenza è dello Stato, cioè è lo Stato che deve decidere dei torti e delle ragioni, e nessuno può da solo pensare di farsi giustizia. Diciamo, questa è la grande novità che introdussero i romani e che caratterizza il nostro ordinamento, e che lo distingue in parte da ordinamenti come quelli a cui lei faceva riferimento, quelli cioè in cui la volontà della persona offesa ha un grosso peso, come alcuni di quelli fondati sul diritto islamico, in cui la persona offesa può decidere della sorte del condannato. Da noi questo avviene solo per alcuni casi residuali, quelli punibili a querela, che sono reati di minore entità. Ecco, io ritengo quindi che bisogna ribadire che in Italia la giustizia la fa lo Stato. Sì, in alcuni casi lo fa lentamente, ma questo significa che dobbiamo impegnarci che cambi questa situazione. Faccio passare il messaggio che è giusto reagire con la vendetta fai da te, umana. La vendetta fai da te legittimata, Elena Doni. E questa, secondo il magistrato, è l'elemento più pericoloso che emerge da questa storia. Visto che nessuno ti fa giustizia, ci devi pensare. Questo è il tono anche di alcuni dei messaggi che ci arrivano, anche se non tutti. Va detto, a ragion del vero, che la reazione ha sempre una motivazione, la provocazione è sempre arbitraria. Italia, ci segnala qualcuno, c'è bisogno di più educazione civica, chiederei i danni a chi suscita reazioni considerate, ancora un altro messaggio, e poi un invito all'istruzione, bisognerebbe educare per tutta la vita a non reagire alle provocazioni. Elena Doni, come si fa, come si trasmette questo, come si educa, di chi è il compito? Ma forse prima di tutto è lo Stato che dovrebbe intervenire a dare condizioni di vita migliori. Noi viviamo in città in cui il traffico è spaventoso rispetto ad altre città che hanno la stessa popolazione in Europa. Il traffico così si vede nei paesi in via di sviluppo, nei paesi che noi consideriamo arretrati. Quindi è una cosa così complessa, per cui secondo me punire una persona o un'altra non ha senso, deve cambiare tutto l'ordinamento sociale, deve cambiare, devono cambiare le condizioni di vita e di circolazione in automobile. Sì, ma a prescindere dal caso specifico, oggi ci chiedevamo, la provocazione può essere portata a giustificazione di una violenza? Anche in situazioni di grande esasperazione come quella dell'automobilista che conosciamo tutti. Ma credo che questa è una domanda alla quale forse un magistrato può rispondere meglio di me, dipende da quanto è grave. Quindi non c'è un no, non c'è un no o un sì, certo, bisogna considerare da caso in caso. Sì, penso di sì, e poi anche la punizione mi sembra una cosa importante, perché la punizione esemplare non serve a niente secondo me, come se la società se ne lavasse le mani. Questa richiesta di giustizia, che avviene questo non solo nel nostro paese, penso ai paesi civili che ancora hanno la pena di morte, non si risolve niente con una punizione esemplare. Si risolve la qualità in generale della vita migliorando i rapporti umani, dando città vivibili e dando possibilità di espiare una pena anche in modi altri. Per esempio in Spagna, nella Spagna di Zapatero, dei primi anni, non so se è ancora in vigore questa punizione. Pene alternative al carcere, non è solo lei, Elena Doni, che indica questa strada. Il GIP di Milano, Enrico Manzi, ha disposto la custodia in carcere della persona in questione. Naturalmente noi non entriamo nel merito, avrà avuto i suoi elementi. Grazie a tutti voi, grazie a Dario Fo. Naturalmente saluto in regia Peter Bescapei, coautori della trasmissione 24 Mattino, Elisabetta Fusconi, Giorgio De Luca, grazie per i vostri contributi, e a tutti gli ascoltatori che oggi rimarranno un po' frustrati, non sono riusciti a parlare. Ci risentiamo lunedì alle 7:15, buona giornata da Irene Zerbini.